tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Vomba di Firenze, radio collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Sono Pierino Marazzani del Circolo Culturale Giordano Bruno. Oggi parleremo soprattutto di misfatti clericali e di anticlericalismo. Dal Fatto Quotidiano del 7 gennaio si parla dell'assassinio 41 anni fa di Piersanti Mattarella, chi comandava in Sicilia Salvo Lima e Vito Ciancimino, quindi democristiani DC uguale mafia. Poi Ombre, luci, cosche, servizio e politica dietro l'assassinio del fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Ma quali servizi? I servizi statali, ovviamente, quindi nominati dai ministri democristiani. Dal libro di Jacopo Fo, Com'è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo, abbiamo due notizie interessanti, edizioni Guanda. Allora, la mamma era attrice a Roma e aveva bisogno di una tata appunto per il piccolo Jacopo. E la prima era una donna consigliata dalle suore. Dopo qualche giorno, mentre era su set di un film, Franca venne a sapere che la tata era appena uscita di prigione perché aveva ucciso il suo neonato. Telefonò alle suore per chiedere se fosse vero e loro le dissero che era vero. Ecco, chiaramente le suore hanno fatto apposta, perché già allora si sapeva che la Franca Rame era di idee di estrema sinistra e quindi loro tentarono di ucciderle il figlio. Poi Jacopo Fo racconta che da adulto fondò insieme ad altri Il Male, questo periodico, che ebbe 186 denunce per oltraggio alla religione. Abbiamo poi dal Corriere della Sera del 31 dicembre Ior, conti nel mirino a Malta, l'affare del Palazzo di Budapest. La Banca del Vaticano: siamo stati noi a fare causa, abbiamo subito un inganno, sì, la raccontino a un altro, e sono i soliti affaristi del Vaticano, queste cricche che sperperano i soldi che lo Stato gli regala tramite l'8 per 1000. Gizzeria, siamo in Calabria, Lamezia Terme: violenze sessuali all'asilo, condannato docente di religione a 4 anni e 8 mesi. Occhio agli insegnanti di religione. Sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio, pena di morte, Papa Francesco l'ha abolita in Vaticano e il catechismo no. Insomma, una lettera polemica, e veniamo a sapere che sì, il Papa effettivamente ha emanato una norma di riforma per togliere la pena di morte dal catechismo, ma in realtà se uno guarda sul sito del Vaticano c'è ancora la vecchia norma del catechismo del 92. Sui privilegi del Vaticano, il giorno del 30 dicembre 2020. Il Vaticano e le tasse. Auspico infatti che il primo proprietario immobiliare del mondo, il Vaticano, inizi a pagare le tasse. Bene. Allora, poi un altro scandalo è saltato fuori il 5 gennaio, scandalo dei bonifici vaticani in Australia, 1,4 milioni di euro, non si sa come sono finiti lì. E poi dalla fanpage, missionario violentava ragazzine nel suo orfanotrofio in Kenya. Missionario condannato a 16 anni di carcere per aver violentato 4 ragazzine in un orfanotrofio del Kenya. Insomma, i preti sempre pericolosi, stare attenti ai preti. Poi passiamo ad altre notizie, per esempio su Rai Storia si è parlato dell'invincibile armada che è finita in un disastro colossale e si è parlato anche della corruzione clericale a proposito di Martin Lutero e del suo viaggio a Roma. E del 1508, e si sono usate proprio queste parole: corruzione, scandalo, si è richiamato il Savonarola, il Machiavelli, però silenzio su Dante Alighieri, perché già Dante Alighieri, se uno legge alcuni passi della Divina Commedia, aveva criticato durissimamente la corruzione del Vaticano. Concludiamo con una frase di Martin Lutero: il Papa è l'anticristo, il diavolo incarnato. Diamo poi dal Corriere della Sera del 31 dicembre, ci dà ottime notizie sul crollo del numero dei matrimoni religiosi a Milano. 1257 civili contro solo 281 religiosi, molto bene. Sempre il Corriere della Sera del 31 dicembre, indagine sociologica di Franco Garelli. Solo il 22% degli italiani va alla messa. Poi in 25 anni raddoppiati favorevoli alla buona morte. Solo il 20% nega la liceità dell'aborto. Diminuita la pratica religiosa. Un dato inedito acuito dalla crisi del welfare. Si accusa la Chiesa di essere ricca e si vorrebbe che lo Stato destinasse l'8 per mille ad altri bisogni e non ai preti. Molto bene. Dalla Svizzera abbiamo il giornalino del Libero Pensiero degli amici svizzeri. 8 vantaggi dell'ateismo. Che cosa guadagni perdendo la fede in Dio? La consonanza cognitiva, la liberazione dalla paura, la responsabilità personale, l'accettazione degli altri, l'accettazione di te stesso, la gratitudine ben indirizzata, l'orgoglio per i tuoi successi e tanto tempo libero. Allora, si può chiedere copia omaggio del giornalino del Libero Pensiero degli amici liberi pensatori del Canton Ticino, scrivendogli su liberopensiero.ch. Adesso, se trovo, eccolo qua. Allora, andate sul sito www.libero-pensiero.ch. Scrivete a redazione.libero.pensiero@gmail.com, vi mandano una copia omaggio della loro rivistina. A proposito del Sacro Macello del 1620-2020, quarto centenario, avevo scritto una lettera alla Gazzetta di Sondrio che me l'ha pubblicata. Gli atei, gli agnostici e liberi pensatori lombardi ricordano con commozione le vittime innocenti di questa e molte altre stragi a sfondo religioso. Vedi la voce su Wikipedia, Sacro Macello e la rubrica Rai 2 Protestantesimo che ne hanno parlato. Qui mi risponde la redazione, però richiamando che era una strage politica, che non è vero, perché avevano la lista di tutti i luterani della valle, tranne quelli della Val Chiavenna e di Bormio, ma quelli della Valtellina vera e propria furono sterminati. E poi si ricorda come l'arciprete di Sondrio, Niccolò Rusca, morì sotto tortura. Beh, uno contro 600 massacrati, mi sembra una rappresaglia sproporzionata. Abbiamo poi dal Manifesto del 31 dicembre. Argentina, dopo 99 anni e 12 ore di dibattito, sia l'aborto legale, sicuro, gratuito. Bene, vittoria anticlericali. Sui libri anticlericali ricordo il libro di Giovanna Caleffi Berneri, Un seme sotto la neve, carteggi e scritti. Giovanna Caleffi, vedova di Camillo Berneri, famoso martire anarchico ucciso a Barcellona dagli stalinisti, fu anch'essa un'indomita militante e nei suoi libri si trovano molti riferimenti anticlericali. E quindi il curatore dice: va messa nel giusto rilievo la sensibilità della Caleffi alle tematiche della libertà religiosa che era stata un po' violata nel dopoguerra dalle prepotenze democristiane. Le ingerenze clericali palesavano la gelida frenesia di potere della Chiesa. E diceva che per trovare un lavoro negli anni 50-60 del secolo scorso bisognava fare la comunione tutte le domeniche. Fu processato due volte da giudici filoclericali per la sua campagna per il controllo delle nascite. Faceva anche scritti di satira antireligiosa contro la Madonna. Una lettera della Berneri del 49 attaccava la morale gesuitica impastata di ipocrisia. In una lettera del 58 afferma che la Chiesa sta corrompendo la vita italiana. Mentre l'educazione sessuale è diventata obbligatoria in tutte le scuole del nord Europa, in Italia siamo ancora all'età medievale. Allora, diciamo ora qualche detto anticlericale. Un attimo che apro il mio librone e arriviamo ai detti anticlericali. Non esistono né Dio né miracoli. David Hume, filosofo scozzese.